questo mese di ottobre del 2019 il Papa sappiamo che sta facendo un sinodo e per cui preghiamo, no? I lavori del Papa con i padri sinodali quest'anno è sul tema dell'Amazzonia, però nello stesso tempo ha questo mese di ottobre l'ha dedicato alla missione, no? Ha indetto come mese missionario. Allora, qual è il motivo di questa dedicazione, di questo mese all'aspetto della missione? È che ricorrono i 100 anni, il 30 novembre del prossimo mese del 2019, 100 anni da una lettera apostolica di Benedetto XV, quindi sì, sono passati 100 anni, no? Nel 1919 questo Papa che noi abbiamo conosciuto ha scritto una lettera che si intitola Maximum Illud, una lettera apostolica proprio sull'attività dei missionari nel mondo. È una lettera abbastanza breve rispetto a quelle a cui siamo abituati, anche se è bella sviluppata. E a me ha incuriosito perché io sapevo che da una conferenza di un professore di storia della Chiesa che questo Papa Benedetto XV aveva avuto una intuizione molto importante e probabilmente proprio dentro a questa lettera di stimolare l'ordinazione nelle terre di missione di gente del posto, no? E questo detto, pensate, nel 1919 poi si è lavorato in questo senso e quindi quando alcuni decenni dopo alcune colonie, no, di paesi europei nei vari paesi di missione sono venute meno, no? Hanno dovuto venire via gli europei, gli spagnoli, portoghesi, francesi, allora e quindi hanno dovuto andare via anche sacerdoti o vescovi, no? Avendo clero del posto, la Chiesa ha potuto andare avanti, no? È un clero radicato nella cultura, nella storia di quel paese. Quindi attraverso questa lettera la Chiesa si è fatta trovare preparata quando negli andirivieni della storia finì il periodo coloniale, perlomeno in gran parte delle zone che erano considerate colonie di paesi europei, che quindi in quanto europei erano di tradizione cattolica, avevano portato poi anche, cioè erano presenti anche con persone della Chiesa, missionari, no? È bello vedere come il Signore Gesù governa la sua Chiesa, lo Spirito Santo la governa e dà anche delle idee molto valide anche in anticipo. Un'altra volta la Chiesa si è detto che è arrivata un po' in ritardo su alcune cose della storia, altre volte invece è arrivata proprio in anticipo. Pensate che recentemente qualcuno ricordava, anche un articolo ricordava, scusate, Leone XIII con la prima enciclica sociale della Chiesa, no? Che la Rerum Novarum, quando c'era uno sfruttamento dei lavoratori pazzesco, no? Orari di lavoro che non esistevano, cioè. E lì il Papa entrava dentro nella questione del lavoro e orientava appunto a dare un limite. Noi siamo abituati che si lavora 8 ore al giorno, faccio per dire, però è tutta una conquista sociale e insieme con tante altre che la Chiesa ha contribuito a far sì che avvenissero, no? Con questi interventi che allora venivano criticati, eh? Il Corriere della Sera di allora criticava il Papa Leone XIII, non c'è nulla di nuovo sotto il sole, no? perché si intrometteva in questioni del cosa c'entra il Papa, no? Il Papa deve parlare della Trinità, dei dogmi della fede, no? Insomma, non c'è nulla di nuovo sotto il sole, no? Invece il Papa diceva, non potete far lavorare la gente 14 ore e sfruttare i minori. Aveva fatto bene, no? Il Papa a dire queste cose. E di fatto ha contribuito, dove lo si è ascoltato, a educare in questo senso. E quindi anche la dottrina sociale della Chiesa è una realtà molto complessa e che è di difficile definizione, ma comunque è una realtà molto importante. Quindi i pontefici intervengono. Beh, non solo i pontefici, anche i vescovi, e adesso stanno lavorando su una dimensione di cui io non sono certo esperto, però se anche la Chiesa interviene in questioni che riguardano, sicuramente se riguardano la salvaguardia del creato, siamo in piena, diciamo, come dire, attività che è del tutto lecita per la Chiesa, perché è una realtà che fa parte della morale, cioè noi il creato l'abbiamo ricevuto come un dono di Dio per lavorarlo, per custodirlo, per arricchirlo, no? Per utilizzarlo per il bene, per la vita delle persone, per la salute, eccetera. Per cui in effetti siamo amministratori del creato, non siamo padroni, no? E quindi in questo senso dobbiamo custodirlo come un dono. E quindi se la Chiesa interviene in questo senso, compie la Chiesa come magistero, no? Compie il suo compito, e se si interroga su queste cose lo fa. Poi dopo, ovviamente in questa materia, una materia meno definibile rispetto a quello che può essere, che so, il dogma della Trinità, no? Cioè, o il dogma dell'incarnazione, cioè anche se pure in queste materie la Chiesa ci ha messo a volte secoli per arrivare a definire una verità, no? Della fede. E quindi anche con tentativi appunto approssimati, fino a che è arrivata a poter dire una cosa chiara su un aspetto della fede, ma anche sull'aspetto del comportamento del cristiano, per esempio, dicevamo prima nella questione sociale di allora, no? Che era la questione operaia, la rivoluzione industriale che aveva portato appunto a queste dimensioni di sfruttamento dei lavoratori disumane, no? E la Chiesa deve intervenire perché è giusto che il mondo sia innervato dallo Spirito di Cristo e dall'obbedienza, no? Alla parola di Dio. Comunque qui mi sono un po' distratto perché abbiamo parlato prima della missionarietà, poi siamo passati al discorso appunto della dottrina sociale e quindi del sinodo attuale, per pregare per questo sinodo che sicuramente lo Spirito Santo agirà attraverso il lavoro di questi padri uniti con il Papa, no? Allora, cosa volevo dire? No, questa invece, tornando alla missionarietà, cioè mese missionario, no? È bello vedere come, per esempio, Benedetto XVI in questa lettera dice, a un certo punto fa una sintesi dei secoli passati, no? Dice questa è la missionarietà della Chiesa, il fatto che la Chiesa si è sentita sempre in questo mandato di Gesù, no? Cioè andate e predicate a tutte le genti, e non riguardava solo gli apostoli, solo la prima generazione, ma tutte le generazioni della Chiesa. Infatti Papa Benedetto XV dice e che all'inizio predicarono il Vangelo anche se c'era la persecuzione, quindi senza paura. Poi, quando furono concesse pubblicamente alla Chiesa la pace e la libertà, assai maggiori furono i suoi progressi compiuti con l'apostolato in tutto il mondo, per opera specialmente di uomini insigni per zelo e santità. Io adesso lo leggo perché uno dice: ah, ma chissà se noi conosciamo un po' di storia della Chiesa, probabilmente poca, no? È l'epoca in cui Gregorio l'Illuminatore conduce l'Armenia alla fede cristiana. Vittorino, la Stiria, Frumenzio, l'Etiopia. Lo conoscevate Frumenzio? No. Non avete chiamato i vostri figli Frumenzio? quindi non lo conoscete. Bene. Quando Patrizio, questo è più facile, conquista a Cristo gli irlandesi, Agostino, gli inglesi, non è Agostino, è un altro Agostino, Colomba e Palladio gli Scoti, e la Scozia è stata conquistata a Cristo da questi, Clemente Willibrord, che si chiama anche Willibrord, no? Il primo vescovo di Utrecht, evangelizza l'Olanda, Bonifacio e Ansgario la Germania, Ansgario o Oscar, se non erro, si può dire così, Cirillo e Metodio gli slavi, questi sono un po' più conosciuti perché abbiamo anche la festa il 14 febbraio, allargandosi ancora la cerchia dell'apostolato, Guglielmo de Rubruchis penetra con la face del Vangelo fra i mongoli, il beato Gregorio X manda missionari in Cina, i figli di Francesco d'Assisi poco dopo vi stabiliscono una fiorente cristianità abbattuta in seguito dalla tempesta della persecuzione. Poi, scoperta l'America, una schiera di uomini apostolici, fra i quali è da ricordare principalmente Bartolomeo Las Casas, gloria e luce dell'ordine domenicano, si consacra alla protezione dei poveri indigeni contro l'infame tirannia degli uomini, allo scopo di liberarli dalla durissima schiavitù dei demoni. Nella stessa epoca Francesco Saverio, degno egli pure di essere paragonato agli apostoli, dopo aver tanto sudato nelle Indie orientali, nel Giappone, per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, muore sul limitare dell'impero cinese, come dire, ecco, a cominciare a, sì, un apostolato dei missionari anche in quella terra lì. E così, e poi va avanti. Ma la cosa che poi, e quindi il Papa raccomanda ai vescovi di curare le missioni, di formare bene i missionari. E fra l'altro mi ha colpito anche in questa lettera, cioè che si capisce che in quell'epoca, 100 anni fa, c'erano problemi magari un po' diversi da quelli che ci possono essere adesso, però non è che non ci fossero problemi, a parte che avevano avuto è appena finita la prima guerra mondiale, no? E quindi si capisce che il Papa dice c'è stato questo guaio della guerra che ha creato molti problemi per le missioni. Allora dice, per esempio, incoraggia i vescovi a essere veri padri di questi che vanno in missione, no? E loro devono sentire che hanno un vero padre, vigile, diligente, pieno di premura e di carità, che condivide con loro le gioie e i dolori, asseconda, promuove ogni buona iniziativa, considera come cosa sua tutto ciò che appartiene a loro, ai missionari, no? Quindi dipende dal modo in cui è diretta la sorte di una missione, no? Perciò può riuscire assai dannosa l'inidoneità di chi la governa. Infatti chi si consacra al posto delle missioni abbandona patria, famiglia, parenti, si avventura in lunghi viaggi pericolosi. Quindi se ha un superiore che lo assiste in ogni circostanza con provvida carità, l'opera riuscirà fruttuosa. Quindi sta un po' bacchettando i vescovi, dicendo: non mandate i missionari, poi vi dimenticate di loro. Oppure poi dice: chi presiede una missione deve cercare di dare sviluppo, incremento, è affidato alla sua cura tutto il territorio della missione, quindi deve rispondere delle persone che gli sono affidate, e cioè li incoraggia a sviluppare le missioni e poi a non essere esclusivisti, cioè, come dire, non uso questa parola, a non pensare alla propria missione e a dimenticarsi del territorio vicino e a collaborare anche con altri, di altre diocesi, di altri ordini religiosi. Quindi come vedete, i problemi dello spirito umano, i problemi del peccato originale ci sono sempre, no? E addirittura una cosa che io non potevo immaginare, no, una cosa che posso immaginare, quando dice: sarebbe riprovevole la condotta di colui che, essendogli stata assegnata da coltivare una parte della vigna del Signore, la considerasse come esclusiva sua proprietà, geloso che altre mani gliela tocchino. Quindi pensate, il missionario dice: adesso questo ho convertito io, questi uomini, tutto, no, non voglio che altri. E invece il Papa dice parole dure di fronte a questo atteggiamento, no? E quindi chiama cooperatori da ogni parte perché lo aiutino nel ministero senza badare se siano di un altro ordine o di diversa nazionalità. Ecco, quello che si capisce è che qui c'è il problema del nazionalismo nei missionari, pensate un po'. Sembra, a un certo punto sembra che appunto ci siano dei missionari che si preoccupano di più del buon nome della propria patria piuttosto che no, della Chiesa. E quindi lui a un certo punto anche bacchetta alcune riviste missionarie di quel tempo che sembra quasi che appunto mettano più in evidenza un po' con spirito colonialista anche a livello di missioni, no? Che l'onore della propria patria più che il fine, cioè, di portare Cristo in quei luoghi, no? E quindi poi dopo parla di formare bene il clero indigeno, quello che dicevamo prima, no? Che deve essere educato bene, ben fatto. E infatti, vabbè, e altre cose di questo tipo, no? E infatti dice a un certo punto da qui si comprende quanto sarebbe deplorevole se vi fossero missionari i quali, dimentichi della propria dignità, pensassero più alla loro patria terrestre che a quella celeste, fossero preoccupati di dilatarne la potenza, la gloria al di sopra di tutte le cose. Sarebbe questa una delle più tristi piaghe dell'apostolato, che paralizzerebbe nel missionario lo zelo per le anime, ne ridurrebbe l'autorità presso gli indigeni. Questi infatti, quantunque barbari e selvaggi, sono parole che magari noi non useremmo oggi, ma comprendono sufficientemente ciò che vuole e cerca da loro il missionario e conoscono, si direbbe, al fiuto se egli ha per caso altre mire all'infuori del loro bene spirituale. E così via, no? Quindi un altro grave inconveniente di cui deve con ogni cura guardarsi il missionario è cercare altri guadagni che non siano quelli delle anime. Non occorre a questo riguardo che spendiamo troppe parole. E poi il missionario che si deve preparare, che deve studiare. Insomma, è una lettera relativamente breve, ma molto forte, molto densa, molto interessante. Per cui è interessante vedere come in ogni epoca il Papa, illuminato dallo Spirito Santo, aiutato dai collaboratori, interviene per dare un orientamento alla Chiesa e evitare difetti. E quindi questa lettera è stata molto importante e se ne sono visti i frutti decenni dopo, no? Certo, allo stesso tempo noi leggiamo questa lettera e ci rendiamo conto che è stata scritta 100 anni fa, cioè che le missioni sono sempre le missioni della Chiesa, anche adesso quando si intende missioni si intende appunto il propagare la fede nei luoghi dove la fede ancora non c'è o dove appunto la Chiesa ancora non è ben costituita, no? Però noi sappiamo bene che e poi nel Concilio Vaticano II c'è stata l'Apostolica Mactuositate, dove la Chiesa ha detto: ecco, però all'apostolato non sono chiamati solo i missionari, non sono chiamati solo alcuni, no? Non sono chiamati solo i sacerdoti, i vescovi, ma è una vocazione di tutti i cristiani. Questa è l'intuizione che anche aveva illuminato San José María Escrivá, il fondatore dell'Opus Dei, quando 30 anni prima aveva pensato: devo, il 2 ottobre del 1928, il Signore mi chiede di dire ai cristiani comuni, normali, gente, i normali battezzati, quelli che non hanno uno specifico incarico nella Chiesa, che possono essere santi nella loro situazione normale e che sono chiamati ad essere apostoli. In un'epoca in cui appunto questo documento che leggiamo del Papa Benedetto XV è di 100 anni fa, 1919, solo 2 anni prima c'è stato il primo codice di diritto canonico della Chiesa, cioè tutti primo libro di legge della Chiesa, e lì i laici erano definiti solo come coloro che non sono né sacerdoti né religiosi, cioè non si diceva nulla di chi erano davvero, no? Nel Vaticano II, dopo alcuni decenni, invece si dice chi sono i laici e i battezzati cristiani anzi hanno un'enorme dignità e sono, in un certo senso, sono la Chiesa, no? I sacerdoti sono a servizio del cristianesimo vissuto dai laici. Non sono loro i sacerdoti, sono quelli che sì, hanno un compito di governo nella Chiesa. E allora, noi contemplando la storia della Chiesa vediamo come lo Spirito Santo agisce e cambiano i pensieri, cambiano le convinzioni, nel senso di crescono e a volte si correggono. Noi siamo figli della Chiesa, dobbiamo pregare per la Chiesa, pregare per il Papa, pregare per la Chiesa, però sentirci parte della Chiesa e in questo, diciamo, mese missionario, no? Che stiamo vivendo, io vi propongo di considerare, a parte evidentemente di pregare per le missioni e ciascuno può fare del bene, anche in questa lettera si chiede, no? Ai cattolici di aiutare le missioni, ma anche economicamente oppure promuovendo le vocazioni per questo tipo di importante apostolato della Chiesa, però allo stesso tempo ricordare che appunto quel punto di cammino di San José María che dice che ci consiglia di considerarci missionari senza chiamarci missionari, no? Apostoli del Signore, cioè quindi mandati dal Signore lì dove noi stiamo, nel bel mezzo della strada, no? Nel luogo che il Signore ci affida nel mondo, nel luogo dove ci porta il nostro lavoro, la nostra famiglia, la nostra città di origine. O di scelta, no? E lì ciascuno di noi è chiamato a essere come dice San Pietro nella sua lettera, come una fiaccola che illumina, quasi, dice la Vulgata latina, lucerne lucenti in caliginoso loco, cioè come delle fiaccole ardenti in un luogo oscuro, cioè il cristiano è chiamato a essere una luce. Voi siete la luce del mondo, ci dice Gesù. È una cosa molto seria quella che dice Gesù, no? Che non deve portare a insuperbirci, appunto a usare male come il Papa Benedetto XV diceva al missionario: o non è che devi fare il bene della tua patria o arricchirti tu, o non so, cercare cose che non c'entrano con Cristo, ma. Però indubbiamente noi abbiamo ricevuto questa luce, noi cristiani, no? Della rivelazione di Cristo, no? Dell'amore di Dio che può scaldare i cuori di tutto il mondo. E allora a volte possiamo pensare, cioè, vi suggerisco come tema di meditazione di questo mese, questa considerazione che io sono apostolo, no? Appunto a San José María gli piaceva dire la tua vocazione di cristiano normale, comune, è come quella degli apostoli, cioè è Gesù che ti ha cercato e Gesù che vive con te e noi dobbiamo cercare di vivere la nostra vita come vivendo con lui come i primi 12 e poi è Gesù che ti manda, no? Andate e predicate a tutte le genti, ma lo ha detto Gesù e lo ha detto a te, no? C'è un altro punto di cammino che dice proprio così. E questo è un aspetto fondamentale della luce fondazionale che il fondatore dell'opera ha avuto e su cui ha predicato, no? Ma d'altra parte, lui diceva, è una luce vecchia come il Vangelo e come il Vangelo nuova. Infatti, anche se volete, no? Quando prendete all'inizio del Vangelo di Giovanni, e il Vangelo comincia così, comincia col prologo, che è una bellissima manifestazione di fede, poi Giovanni Battista che lui dice: non sono io quello che deve venire. E invece quando passa Gesù dice: ecco l'agnello di Dio. E due dei suoi discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: venite, vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava. E quel giorno rimasero con lui, erano circa le 4 del pomeriggio. Diversi decenni fa, un francese, l'abbé Chotard, scrisse un libro che ebbe molta fortuna allora e poi anche dopo, che si intitolava L'anima di ogni apostolato. E in fondo era tutto un libro, io l'ho letto da ragazzo, che mi è stato consigliato, tutto un libro che, attraverso vari esempi, varie considerazioni, veniva a dire: se tu vuoi essere apostolo, devi pregare, cioè devi stare con Gesù. No? E quella è l'anima di ogni apostolato, cioè lo stare con Cristo, no? Per poter poi parlare di Lui. E in effetti in questo brano del Vangelo si vede questi due discepoli dicono: Maestro, dove abiti? Stanno con Lui tutto il giorno, tutto il pomeriggio, possiamo dire la sera, e il giorno dopo, come sovrabbondanza di questa luce che il Signore gli ha dato, di questa grazia che è stato stare con Gesù, di questa conoscenza personale di Cristo. Poi nella prima lettera di San Giovanni dice: colui che abbiamo toccato, che le nostre mani hanno stretto, no? Ecco, quello vi annunciamo, il verbo della vita. Abbiamo ascoltato, toccato con mano, cioè abbiamo proprio visto il verbo di Dio fatto carne ed abitare in mezzo a noi. Allora con questa luce loro sentono una grande forza e vanno. E da chi vanno? Andrea va da Pietro, suo fratello. E poi lì manca qualcosa nel primo brano. Cioè, è come se. E l'altro chi è? Non si parla dell'altro. E quindi è per questo che la gente pensa, cioè che un'interpretazione è più facile pensare: l'altro è quello che sta scrivendo il Vangelo e che non si vuole mettere in mostra. Quindi il discepolo amato, Giovanni, no? Perché sennò Giacomo da dove spunta? E non è narrato qua, lo narrano gli altri Vangeli, che Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni. E Giacomo e Giovanni qui non esistono. Secondo me Giovanni pure va da Giacomo, suo fratello, e poi va anche dagli amici di Bezzaida. Infatti a un certo punto spunta, ma non si sa da dove spunti, cioè dice l'evangelista, leggiamo tutto, che tanto ve lo ricordate, ma lo ricordiamo, lo leggiamo insieme. Uno dei due che aveva udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Quindi capite che l'obiezione può essere: e l'altro chi era, no? Perché non ne parli? Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia. Come a dire, questo brano dice: ma vedete come l'apostolato era essenziale? E quando il Papa dice: non pensate che dovete fare tutto al catechismo, cioè all'inizio, no? Ma dovete, il kerygma è questo, cioè è proprio un annuncio essenzialissimo della verità cristiana. Abbiamo trovato il Messia, che poi in latino sono due parole, in venimus Messia, in greco non so se sono due o tre, adesso non mi ricordo. Capite? Essenzialissimo. Che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Perché comprendete che l'apostolato non è, noi lo vediamo in questa, non è convincere noi un altro di tutto un pensiero, tutta un'architettura. Poi senz'altro arriverà col tempo a conoscere la dottrina della Chiesa e a comprendere la saggezza. Ma è portarlo da Gesù. E infatti le conversioni sono qualcosa di profondissimo, ma anche di molto semplice e allo stesso tempo radicale, che accade perché le persone incontrano Gesù. magari, cioè, attraverso di noi, magari noi neanche ce ne rendiamo conto, no? Sempre pensando a un libro che diventò molto famoso negli anni 60, che di André Frossard, oggi mi viene da citare i francesi, non so perché, e che era un giornalista francese che scrisse un libro molto famoso che si intitolava Dio esiste, io l'ho incontrato, no? Allora è un libro affascinante, che lui proprio descrive che lui era proprio ateo, ma di quelli proprio, cioè che neanche era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, di famiglia ebraica non credente, ma lui diceva che proprio l'idea di Dio non l'aveva mai sfiorato, mai se ne era parlato in casa sua, proprio un ateismo profondissimo e no, non di abbandono di una fede ricevuta come succede spesso tra noi, ma proprio di assenza totale di una stessa idea di che potesse esistere un concetto di questo tipo, cioè lui così narra, no? Però nell'azienda in cui lavorava, nella redazione, era un giornalista, non so, dell'editrice in cui lavorava, c'era un giovane cattolico, simpatico, che fa amicizia con lui, che gli presta un libro. E lui dice, adesso non mi ricordo se si ricordava il titolo, ma lo lesse o non lo lesse, ma non gli disse nulla, cioè, non, zero. Però capite, c'è stato un amico accanto, per cui non è. Poi dopo lui passa il tempo, eccetera, ha un appuntamento con una ragazza, quella mi pare, no, sta con un amico, insomma, non mi ricordo i dettagli. L'amico entra dentro una chiesa, lui lo aspetta fuori, quello non esce più, si innervosisce, entra per capire cosa sta succedendo e quindi narra che ha ricevuto dice, guardo la seconda candela, ed era evidente che c'era una esposizione dell'Eucaristia, no, in quella chiesa. Lui manco si accorge di cosa, non sa niente. Cioè dice, mi concentro sulla seconda candela a partire da sinistra, mi pare, e riceve un'illuminazione, per cui dice, io sono entrato in quella chiesa assolutamente ateo, ma proprio senza nessuna idea di Dio, ed esco cattolico, apostolico, romano. Cioè una cosa straordinaria, no? Tanto che poi suo padre si preoccupa tanto, lo manda dal medico socialista che dice, non si preoccupi, questa è una malattia, si chiama grazia. Dopo un paio d'anni passa. Quindi aveva una visione, diciamo, da medico ateo di quello che gli era successo, si chiama grazia, però dopo un paio d'anni non ti preoccupare, passa. E invece lui ha perseverato in questa vocazione cristiana con un sacco di difficoltà. Però capite, no? Mi ricordo questo particolare della sua storia perché c'è comunque un amico, anche se poi non è stato concretamente il discorso che gli ho fatto, l'ha convinto, il libro che gli ho dato, l'ha illuminato. A volte può succedere, no? Però non è necessario che succeda. E quindi Gesù ha voluto incontrare Pietro attraverso Andrea. Ha voluto incontrare Andrea e Giovanni, ipotizziamo che il secondo è Giovanni, attraverso Giovanni Battista. Ha voluto incontrare dopo, no? Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo, da dove arriva? Era amico di Giovanni, ma comunque, gli disse: seguimi. Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro, e noi sappiamo che è anche la città di Giovanni e Giacomo. Comunque, capite, questo l'umiltà dell'evangelista che Filippo trovò Natanaele, il suo amico, e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti. Questo era un po' uno più dotto, no? Di Pietro, quindi fa tutto un discorso, due righe. Nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazareth, interessante. E Natanaele gli disse: da Nazareth può venire qualcosa di buono. Lui sappiamo dopo che è di Cana di Galilea, un paese vicino, rivale, no? Però lui lo diceva anche come esperto della Bibbia, da Nazareth. Che possa venire il Messia da Nazareth è impensabile. Filippo gli rispose: vieni e vedi. Quindi è lo stesso venite e vedrete che è di Gesù. E lo porta da Gesù. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. E Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Evidentemente quella frase a lui dice molto, no? A questo Natanaele. Allora, capite cosa vuol dire che a ciascuno di noi è chiesto qualcosa del genere? Poi non è che non è detto che vada sempre bene, però è qualcosa del genere, e comunque questa è la vocazione cristiana che abbiamo ricevuto, è come quella degli apostoli: stare con Cristo e parlare di Lui, e portare la gente a Lui, portare la gente a Lui, vieni e vedi, no? Magari a volte portare davanti a un crocifisso, portare davanti al tabernacolo, portare davanti al Vangelo, portare o semplicemente davanti a un esempio di, non so, portare da un povero che ha bisogno, che è Cristo, no? Io penso che se noi meditiamo su questa nostra vocazione apostolica, penso che facciamo una cosa che fa piacere a Gesù e fa piacere anche al Papa, che ha indetto questo mese missionario. Chiediamo per questo l'intercessione di Maria, regina degli apostoli, no? E regina delle missioni. Prega per noi.